Enea, storie di nuovi italiani, di Valentina Furlanetto. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto, bentornati all'appuntamento di Radio 24 con gli italiani di origine straniera. Oggi andiamo nell'Agropontino, andiamo a Latina, Frosinone, in un'area dove vivono moltissimi lavoratori Sikh, una comunità molto presente in Italia, sia nella pianura padana sia appunto nel Lazio. Abbiamo con noi Stefano Morea, segretario CGIL FLAI. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. La filiera dell'alimentare è sempre ovviamente fondamentale, indispensabile per gli italiani, ma in questo momento ancora di più è fra gli approvvigionamenti considerati indispensabili. Quindi questa comunità continua a lavorare. La comunità continua a lavorare, superando anche le fasi controverse. Adesso continua a lavorare, forse adesso ancora più invisibili, perché l'occhio attento e vigile di chi poteva entrare in contatto e praticamente chiuso negli uffici. Penso alla nostra attività sindacale che stiamo facendo in questo momento da remoto. Nel territorio pontino sicuramente il pezzo alimentare dell'agricoltura continua a lavorare a pieno regime, anche se abbiamo un rallentamento nel florovivaismo legato alle vendite del settore, quindi alla chiusura delle attività commerciali che vendevano questi prodotti, ma comunque bene o male la presenza dei lavoratori nelle campagne c'è. आजा जिंद शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है जय हो जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले है आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है जय हो Quanti sono i lavoratori Sikh nell'Agropontino e che cosa fanno? La comunità Sikh dell'Agropontino è una comunità ormai insediata in pianta stabile sul territorio, diciamo all'incirca sono 30.000 lavoratori e lavoratrici ormai presenti su questo territorio. Si occupano di tutte le attività, dalle attività collaterali alle attività primarie dell'agricoltura, pertanto sono presenti all'interno di tutte le aziende agricole. Chiaro che la raccolta dei prodotti fa il grosso dell'occupazione, ma parliamo anche di un'agricoltura ben strutturata, pertanto le raccolte si susseguono, quindi consentono a questi lavoratori ormai di essersi stabiliti sul territorio, anche con i ricongiungimenti familiari, quindi con la famiglia presente all'interno del sistema sociale del territorio stesso. Ci sono stati, lo dicevamo, casi di sfruttamento, lavoro nero, persone che lavorano 12-15 ore al giorno, tra l'altro utilizzando a volte anche degli stupefacenti per riuscire a lavorare così tante ore. Lei diceva in questo momento le uscite sul territorio di chi dovrebbe controllare sono state soffocate dalla situazione sanitaria, quindi i rischi sono più alti. I rischi sono più alti, ci stiamo attrezzando anche per questo. Sfrutteremo anche un'iniziativa lodevole dell'ente bilaterale per l'agricoltura, del quale facciamo parte, della distribuzione di 50.000 mascherine sul territorio, anche coadiuvati dalle forze dell'ordine e dall'organizzazione territoriale, anche per comunque entrare in contatto. Noi abbiamo messo a disposizione. Perché non lavorano con dispositivi di distanziamento come mascherine, guanti, queste persone? Lavorano anche con i dispositivi di protezione, per quello che ci è dato sapere, non riuscendo poi a conoscere perché anche noi impossibilitati a spostarci, qual è la situazione generale. Noi abbiamo Reale, voluto fare certo. sì, come atto di buona volontà, aggiungere a quelle che anche le aziende hanno messo a disposizione, ma gli stessi lavoratori presenti sul territorio si sono dotati di mascherine, abbiamo deciso insomma di fare uno sforzo che potesse anche dare respiro e prendersi cura anche di quei lavoratori che per esempio lavorano in aziende che non si sono preoccupati di dotarli E lei ha di notizie in dispositivi. questo senso di aziende che non si sono dotate Conosciamo, di dispositivi? abbiamo situazioni eterogenee, quindi molte aziende si sono occupate assolutamente della distribuzione, tantissimi ragazzi e ragazze si sono insomma, presi cura della loro salute, ma stanno facendo per esempio un dato da segnalare che ci orgogliosisce, è il fatto che stanno facendo molto solidarietà, quindi stanno raccogliendo dei soldi per metterlo a disposizione dei presidi ospedalieri, per esempio, del territorio. Sono più casi dove lavoratori di aziende molto grandi agricole hanno deciso di tassarsi per mettere a disposizione delle risorse economiche, degli ospedali, insomma, del territorio nel quale vivono. Lei diceva 30.000 circa è il numero delle persone sicche che lavorano nell'Agropontino, ma di queste quante lavorano secondo i vostri dati in nero e quante lavorano con contratto regolare? Delle 30.000 sono quelle di lavoratori in chiaro, quindi che da statistiche risultano presenti sul territorio. Se affrontiamo anche il tema del lavoro nero, qui i numeri si possono innalzare in maniera importante. È anche vero che in questo momento la presenza da irregolare sul territorio è ancora più difficile, quindi Le noi stime di diamo quanto parlano? La maggiorazione rischiamo di, se entriamo in questo campo, rischiamo di fare la rincorsa dei dati. Veramente no, in questo momento ci vorremmo concentrare molto più su quelli che sono i dati reali. INPS dice che nelle ultime ispezioni, faccio riferimento all'ultima seduta della sezione territoriale del lavoro agricolo di qualità, ci dava almeno un 20% al loro ingresso a verifica di personale non in regola all'interno delle aziende agricole ispezionate. In questo caso le Indicativo. persone senza contratto non sono giustificate a lavorare, quindi non potrebbero in questo momento lavorare, un po' come i braccianti agricoli del Sud Italia. In questo momento non potrebbero lavorare o altrimenti stanno lavorando proprio perché i controlli sono meno intensi. Questa seconda parte parliamo con una persona di origini Sikh, la conosciamo da tempo ormai perché è stata ospite della trasmissione parecchio tempo fa ormai perché ha partecipato a un documentario sulla comunità Sikh nell'Agropontino. Io sto parlando di Ardeep Kaur che è in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ardip, tu sei funzionario CGIL FLAI, e hai fatto la mediatrice per anni per questa comunità perché i tuoi genitori sono Sikh di origine. Raccontaci in breve, riepilogaci qual è la storia della tua famiglia. Siete arrivati, qui, nella zona di Frosinone Latina per il lavoro, no? Per chiamati, tra l'altro, da un passaparola nella comunità, perché è così che funziona, o no? Sì, diciamo, beh, il percorso della mia famiglia è stato un po' anomalo, però alla fine sì, sono i miei sono venuti qui, mio padre nel 1979, quindi più di 40 anni fa ormai, e poi come succede per la comunità indiana, le donne con il ricongiungimento familiare, no? Si recupera il resto della famiglia e quindi mia madre lo ha raggiunto una volta che mio padre aveva trovato una sistemazione sia lavorativa che da un punto di vista alloggiativo. E poi noi siamo nati qui. Voi Quindi in figli realtà siete noi non nati lì. veniamo da nessuna parte. Sì, la famiglia viene dall'India, ma voi siete italiani, anche i vostri genitori ormai si possono considerare italiani, anche se è una comunità dove resistono le tradizioni, anche perché sono tradizioni molto, che voglio dire, in qualche maniera, pregnano l'identità della persona, o sbaglio? Eh sì, le tradizioni sono molto importanti e paradossalmente per la comunità che è presente sul territorio a volte diventano anche l'unico modo per sentirsi legati a qualcosa, no? Che ti manca e la nostalgia poi magari diventa tanta per il paese d'origine. Quindi spesso accade che le famiglie che sono qui sul territorio rispettino e siano molto più legate alle tradizioni da un punto di vista religioso e culturale, molto più di chi invece vive in India. Ci dobbiamo fermare brevemente perché c'è una piccola pausa, ma torniamo con lei tra pochissimo. Promo 24. Eolo porta internet a banda ultralarga anche alle imprese della provincia italiana. Eolo Azienda è la soluzione di connettività progettata su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Con le offerte di Eolo Azienda hai il servizio attivo in soli 5 giorni, puoi navigare fino a 1 giga e ricevi sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939. Oppure visita il sito azienda.eolo.it. I figli di Enea. E bentornati ai figli di Enea. Le tradizioni della comunità Sikh, in qualche maniera anche la mentalità, anche la religione, ha imbrigliato questi lavoratori in una serie di costumi che non favoriscono l'indipendenza di pensiero e anche l'affrancarsi da una situazione paraschiavistica per anni. A volte diciamo che l'emanciparsi diventa complicato anche perché bisogna avere la voglia di emanciparsi e questo fa sì, no? Che a volte la famiglia o le persone che cercano un pochino di essere un po' più indipendenti e di trovare magari loro a risolvere i loro problemi senza che qualcuno faccia da intermediario per loro, sembra quasi una mancanza di rispetto o di tradimento, di arroganza. Quindi a volte è un po' complicato. È vero che le nuove generazioni stanno un po' cambiando questo. यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया, फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। Tuo padre che cosa faceva quando è arrivato? Che tipo di lavoro faceva? Mio padre ha sempre fatto il fornaio, ha sempre lavorato nei forni perché diciamo che in questa zona, nell'Agro Pontino, Generalmente la comunità indiana è impiegata comunque nel lavoro delle campagne, salendo verso le colline, e invece dove c'è un'attività importante anche dei panifici, molti indiani invece lavorano appunto all'interno dei panifici. E niente, quindi mio padre ha fatto per 35 anni il fornaio. In che maniera voi figli vi siete affrancati, avvicinandovi invece a una rivendicazione, nel tuo caso, a dei diritti dei lavoratori, facendo tu la funzionaria della CGIL? C'è stato uno scontro generazionale o è stato un passaggio condiviso dalla famiglia? Ma con la mia famiglia, che è un pochino più anomala, nel senso buono del termine, sono abbastanza fortunata, perché comunque mio padre ha una laurea, quindi aveva un'istruzione importante anche in India, e ci ha sempre sostenuto, da questo punto di vista, rispetto a quello che poteva essere l'indipendenza economica, l'attenzione allo studio. È sempre stato lui molto attento a spronarci ancora a fare corsi su corsi e tutto quanto, quindi su questo ci ha molto appoggiato. E nonostante poi magari anche all'interno della ristretta comunità del paesino dove sono nata e cresciuta potesse anche risultare un pochino così un po' fuori le righe, visto che poi incentivava l'emancipazione e l'autonomia comunque di una donna. Era molto più facile, sarebbe stato molto più facile incentivare ad esempio un fratello, ecco. È chiaro. Però questo per lui comunque era importante, ma questo perché aveva comunque un suo bagaglio culturale dietro. Nella comunità, credo nell'agropontino, non so, credo, immagino che sia l'unico laureato. Mio padre in India insegnava, quindi questo fa sì che quando parliamo anche dell'importanza dell'istruzione, ed anche in questo periodo, no, di quarantena e di confinamento in casa, l'istruzione, l'importanza dell'istruzione, che poi crea il divario sociale anche tra i figli dei migranti, tra chi spesso non è in grado di seguire, no, le lezioni o di accedere al registro elettronico perché non ha la connessione e tutto il resto. L'istruzione è veramente molto importante, e io lo capisco perché a me ha permesso veramente di vivere una vita diversa da quella delle mie coetanee. Perché tu hai studiato. Io ho studiato e loro sono stati molto attenti su questo. Hai toccato un tasto importantissimo, credo, per tutte le comunità straniere, quelle dell'accesso all'istruzione. La didattica online in questo momento accentua il divario tra le famiglie che hanno a disposizione una connessione, un computer, una famiglia che può seguirli, dei libri, e chi invece a casa non ha queste cose, per i quali la scuola è importantissima per affrancarsi dalla famiglia, dalla cultura di origine, e anche per fare il salto sociale, il salto di qualità lavorativa ma anche sociale. Tu questo lo vedi e lo senti fra i bambini, i ragazzi della comunità Sikh? Ti preoccupa? Non solo tra la comunità Sikh, perché comunque come Fly seguiamo tutti i lavoratori, e ovviamente questi lavoratori, molti di questi sono migranti, e molti di origini africane ad esempio, hanno tutti bimbi in età scolastica, quasi nessuno ha figli che insomma sono grandi, ovviamente, perché loro vengono qui per lavorare, quindi portano dietro la famiglia, i bambini piccoli che nascono qui oppure vengono comunque da piccoli dall'estero, e moltissimi hanno questi tipi di problemi, perché moltissime famiglie non hanno, non dico tanto la connessione, quanto molti non hanno proprio l'accesso non hanno ad esempio i dispositivi, e quindi questo fa sì che la loro il divario che c'era, che poteva essere già comunque un divario importante all'interno delle classi, diventi qualcosa di ancora più insormontabile. Buzz, yeah. quindi l'assenza della scuola in questo momento accentua il divario, il vuoto, il buco che c'è fra un ragazzino italiano di origine e un ragazzino che ha genitori stranieri. Sì, perché la mancanza di diritti, ma questo in qualsiasi ambito, la mancanza di diritti ovviamente fa sì che si resti indietro. Questo può succedere per i bambini che vanno a scuola e che non hanno dispositivi, ma può succedere anche per chi lavora qui e non ha ad esempio i documenti e non riesce spesso ad accedere alle prestazioni basilari del sistema sanitario o di qualsiasi tipo di attività si faccia. Se sei irregolare resti anche non fuori da tutto il sistema di tutele. Per questo anche come FLAE, come CGL, abbiamo lanciato una lettera appello il 20 marzo con l'hashtag regolarizzateli, nella quale appunto con la quale chiediamo alle istituzioni di far emergere i lavoratori che si trovano adesso in una condizione di irregolarità, ma che comunque sono presenti sul territorio e lavorano, ma non hanno ad esempio un contratto, non hanno i documenti per tutta una serie di motivi, e di far sì che vengano a loro garantite le stesse tutele e gli stessi diritti di tutti i lavoratori. Si parla di una regolarizzazione, di una sanatoria per 200.000 persone in Italia, ma si parla di 600.000 braccianti in Italia irregolari, quindi sarebbe una goccia nel mare, un terzo, comunque qualcosa, però insufficiente. Diciamo che ovviamente il discorso sarebbe molto più grande, più lungo. Le sanatorie non piacciono a nessuno, però in questo momento ovviamente è importante sia dare una risposta a un settore che si trova in difficoltà, visto che moltissime produzioni, moltissimi raccolti sono a rischio per la mancanza di braccianti, e sia soprattutto, credo, dare una risposta alle migliaia di persone che si trovano all'interno delle nostre campagne, che fanno sì che il mondo della filiera continui a lavorare e garantirci i prodotti principali all'interno delle nostre case, sulle nostre tavole, e che comunque oggi sono completamente senza alcun tipo di tutela. Quindi se non sappiamo ancora quali sono i numeri, però ovviamente una risposta è necessaria. La preoccupazione del sindacato, oltre a questo, ovviamente anche l'attenzione alla tutela che manca in questo momento ai lavoratori, che sono quelli più fragili, quelli che non sono regolari, quelli che risultano in questo momento completamente invisibili. Volevamo braccia, sono arrivati uomini, scrisse 40 anni fa ormai lo scrittore svizzero Max Frisch, spiegando perché troppi svizzeri fossero così ostili agli immigrati, in quel caso italiani, contro cui avevano scatenato anche 3 referendum, perché si parla di braccianti, ma poi i braccianti sono persone che rivendicano i loro diritti, come è giusto. La comunità SIC è pronta a rivendicare i propri diritti? La comunità SIC lo è sempre stata pronta, i lavoratori in generale sono pronti a rivendicare i loro diritti. Lo abbiamo fatto ormai 4 anni fa in Piazza della Libertà con uno sciopero, lo abbiamo rifatto riscendendo in piazza e facendo una manifestazione il 21 ottobre dell'anno scorso. Se sarà necessario, assolutamente torneremo in piazza. Grazie Ardip Kaur per essere stata con noi questa sera, buona serata. Grazie. Grazie anche a tutti voi che siete stati all'ascolto di questa puntata, ci risentiamo sabato prossimo alle 21 su Radio 24, io vi auguro una buona serata, una buona domenica, da Valentina Furlanetto è tutto, ciao.